può spiegare me a me, te a te, noi a noi stessi, solo Dio. Agostino, peccatore, si converte a 35 anni e mezzo, dopo una giovinezza spensierata, è il meno che si possa dire. Dopo aver cercato l'impossibile su questa terra per divertirsi, voltando le spalle a Dio, si è deciso di voltargli la faccia e scrisse quelle parole famose con le quali inizia il suo libro più famoso, Le Confessioni, dicendo: «O Dio, tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore sarà sempre inquieto finché non si riposerà in te». La più grande mente concepita dal cristianesimo, Sant'Agostino, che dai 35 anni e mezzo in avanti fino a tarda età sarà tutt'altro che quel povero diavolo che era stato fino ai 35 anni e mezzo, un santo spettacolare, stupendo, Sant'Agostino. Si era accorto in 35 anni e mezzo che aveva sciupato tante scarpe, sciupato tanto fiato, perduto troppo tempo per andare in cerca di ciò che non appaga se non provvisoriamente, apparentemente, e si decise di cambiare rotta, cambiare strada e andare a cercare Dio. Dio. È tempo perso cercare la spiegazione del nostro essere altrove che in Dio. Il mistero dell'uomo lo può spiegare solo il mistero di Dio. In Dio trova spiegazione la nostra persona, per quanto piccola. Solo Dio può spiegare a me chi sono, a voi e a tutti. Specchiature di Dio, immagini di Dio, la gloria di Dio, l'uomo vivente, ciascuno di noi, per quanto povero di talenti, di doti, di salute, oh, siamo altamente ricchi di una ricchezza regale, trascendente, divina, divina. E perché capissimo questo, Dio ha voluto nascere come siamo nati noi, da carne, fatto carne, uomo, tutto Dio e tutto uomo, Gesù di Nazareth, perché ci ricordassimo che l'uomo non può spiegarlo nessuno, solo l'autore, Dio. Quanto vale l'uomo, quanto valiamo ciascuno di noi? Non pensate mai tristemente, non pensate mai pessimisticamente, cosa ho combinato io nella vita, ho fatto niente, io sono un essere inutile, sono un attrezzo inutile. Non dite queste insulsaggini. L'uomo, quanto vale? Bisognerebbe sapere quanto vale Dio per rispondere quanto valiamo noi, ciascuno di noi. E chi sa dirci quanto vale Dio? Non è riuscito a dircelo né manco il grande Sant'Agostino. Perché il prezzo dell'uomo è lo stesso prezzo di Dio. Egli è in croce in luogo di Barabba, l'assassino. Quello avrebbe avuto il diritto di dire: sono venuto al mondo per combinare solo pastrocci. Sono stato un ladro, un assassino. Quello poteva dirlo, ma non gliel'ha permesso lui, che piegando la testa con l'ultimo fiato verso di lui gli disse: tu che hai ucciso, tu che sei un ladro, sappi che io sono qui che muoio per Barabba e adesso muoio anche per te. Ma Barabba era un fallito. Ma tu, ladrone, sei un fallito. No. Egli dà il suo sangue come prezzo di Barabba e prezzo del ladrone pentito. Sono due esseri rifiutati dalla società, non da Dio. Perché i modi di giudicare della società umana spesse volte sono erronei, barbari, ingiusti. Quel Cristo che è tutto Dio e tutto uomo paga il prezzo della persona di Barabba, paga il prezzo della persona di questo condannato a morte e per la salvezza di ambedue e di noi compresi muore per dirci qual è il prezzo della nostra persona, per quanto povera e miserevole essa possa apparirci. Com'è bello sapere che Dio si è fatto uomo perché l'uomo capisca quanto è grande il suo valore, il nostro valore.